cambio. Hola, hola. Hola, attenzione, canale 10, cambio basso. Attenzione, canale 10, cambio. Hola, attenzione 10. Attenzione 10, cambio. Andate. Ora, ora, ora, ora. Attenzione 10. Ora, ora, ora. Attenzione 10, cambio. Tutti usciti, ciao già. E beh, lui. Ho sentito un bip, ho detto, ma magari vuole entrare qualcuno. Perché stavo facendo altro, ho mollato. Boh, non lo so. Io non lo so. E tu cosa stai combinando? Ma niente, che ascoltando. Saluto di nuovo. Ascoltando. Ah, ascoltando. Un 40-20. 115, sì. No, io. Però non mi piace più ascoltare. Con... cosa so che il VU. Cosa VU? Boh. E cosa così? Fa 27, via, magari vi funzionano tutti i canali pieni, non c'è una buccia. Magari. Ma se lo diciamo e non entriamo, è quella la ragione. Se tutti quelli che dicono non c'è più gente entrassero, già la gente c'è. La gente c'è, ma siamo quattro gatti e quei quattro gatti entrano, non tutti pure, perché se entra uno non entra l'altro, se entra quello non entra l'altro, già lo sai. Così che bisogna fare anche i turni di quattro, anche i turni bisogna fare, perché giustamente deve parlare anche le altre persone, capito? Sì, vabbè, ma l'interessante è che si faccia un discorso, che si rimanga parlando tutta la sera o tutta la mattina e si riesce ad andare avanti. Cosa me ne frega che ci sia tanta gente e poi che ci sia casino, uno si sovramodula con l'altro, portanti, chi si è guidato, come era prima? Ma prima se ti stancavi di un canale andavi nell'altro, a voglia, era tutto pieno. Poi la tecnologia ha rastremato. I tempi sono cambiati, però a chi è rimasta la passione, gli apparecchi li ha tenuti. E se c'è gente si va avanti, non è che ognuno porta la sua avanti di passione, no? Pure i ragazzi, lo sai, vanno su internet, mi dico che l'altro. A volte si ammalano pure con internet, perché sono proprio è come una droga per loro, se non hanno internet non sanno stare. E infatti prima quante generazioni sono passate con le radio, da padre a figlio, abbiamo fatto più nuda ai giovani di oggi, ormai. A tuo figlio gli interessa? No, a mio figlio gli interessa? No, a figlio di quello neanche, cioè proprio zero, anche se vedono il padre parlandoci, proprio ti passano a malapena davanti, ma non fanno neanche caso proprio a dire che si appassionano minimamente o come funzionava, manco baricato di quina futti. Ma non sono tutti così, per dire il figlio di Gianni, Chiodo Ruggerito, parla al baracchino, si fa anche di si è iscritto a gruppi tipo come Alfa Tango, però non è Alfa Tango un altro, si è iscritto a quei gruppi lì che fanno di ex, eccetera, e lui è interessato, non sono tutti che hanno l'interesse, però qualcuno c'è ancora, per dire Riccardino non aveva l'interesse ed era un ragazzino, eppure gli piaceva, solo che non hanno saputo tenerlo. Quanto l'hanno fatto durare? Perché siccome eravamo in troppi, no? Allora bisognava decimare. E allora hanno deciso di farlo fuori. E attrezzatura ne aveva da cadere, in poco tempo si è riempito la stazione di microfoni, apparati base, di tutto e di più ci aveva, poi ha venduto tutto. Già li avevo visti gli annunci. Che ci vuoi fare? Magari la passione sicuramente ce l'ha ancora, però dice se devo entrare poi mi fanno a pezzi. Ma Riccardino c'è anche la passione del parapendio, va a volare, pensa della radio, è molto pappa, si fa un'altra cosa, non è che i ragazzi sono così, no? passione principale o comunque una passione, quello, ognuno di noi ha più passioni, però comunque sia la radio. E così, lascia perdere già che ne hanno fatto bugie. È vero, un ragazzo educato, si applicava, perché dopo poco tempo aveva imparato tutti gli OCD. Però non c'aveva 18 anni ancora, capito? Già, devi capire anche tu. Sì, vabbè, ma anche prima si poteva entrare, anche se eri minorenne, bastava anche mettersi la firma di un genitore e potevi entrare. Era così? Era. Oh, si può fare, quelli che vogliono entrare poi si fanno fuggire, è normale che poi non sia, perché ricavino ci sarebbe stato ancora, rimpiaceva, entrava ogni sera. Entrava tutti i giorni, allora, anche la mattina, si stava passeggiando bene, capito? E cosa ci vuoi fare? Però vedi, non sono tutti, capito? Ne puoi contare uno, ma quante generazioni ci sono che siamo in radio, cioè già, e se tu ne conti uno su 100, è come figlio di Chiodo Arrugginito, appunto, e allora è già fallita la cosa. Vabbè, interessante che entrino persone, diciamo, in gamba, educate, cosa te ne frega, se sono pochi ne prendiamo pochi, interessante che siano pochi ma pochi. Ma troppo pochi, già, troppo pochi, troppo. Ecco perché poi la gente si stufa, come ben vedi, anche nell'arco già di poco tempo, di un anno, già molti si sono ritirati, oppure entra in una mucca, ogni mucca di baba, con tanti impegni, così dicono, capito? E così, perché meno gente c'è, meno secondo me c'è voglia anche, secondo me, perché uno dice in quel canale solo lo sono. Prima giravi i canali, cambiavi QSO perché cambiavi tutto, capito? Entravi e cosa? Sì, vedi un canale solo e quando vedi la fede uno burro, è normale che la gente si stufa, no? Ma potevi scegliere anche la ruota, se non ti andava bene la gente che c'era andavi in un altro canale, via, eh. Adesso quelle sono le ruote, ma diciamo che siete tutta tranquilla, perché adesso prima. Immagina prima che mettevano portanti, ma perché c'era il periodo anche delle portanti, anche ultimamente c'era il periodo, poi hanno smesso. Chi è? Boh, c'è qualcuno che non sta uscendo. Oh, avanti. Da 1, 2, 3, 4, 5, 6. È Antonello Pompugno questo qua, è Antonello Pompugno. Ma lo sentito appena, ma lo sentito. Antonello, stai uscendo, ma passo, paro, ma che si sembra qui, ma stai usando il bienvenido, Anto, e Antonello, là, stavo uscendo basso basso. So che doveva aggiustare un microfono e mi ho portato il PC io perché non ce l'aveva. Poi non lo so, adesso cosa è convenente. Antonella! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, prova, se mi avvicini. Ehi, adesso sì, Antonio, cosa stai usando? Sto usando il CM93. CM93, a chi non è recente? Non è gioco, boh, a me lo chiedi. E beh, come sta Simone? Non sta bene per niente, no. Non sta veramente bene. È messa male, perché altro, capito? Ma ricoverata? No, è stata lì a pronto soccorso, ma la madre ha fatto 2 ore, cioè 2 ore, 4 ore la verità, in confronto ai 48 ore che ne ha fatto uno. e poi si sono bisticciate, sono arrivate schiaffe e calci con i medici, capito? 28 ore lampada in chiave, a ce la fai? E chi è che si è bisticciato? Il dottore con un altro? Ehi, lo sto dicendo, è un casino, sassa arriva, non come, ma con la lei appunto soccorso. Sì, vabbè, perché c'è gente che non capisce le situazioni, non sa aspettare, ci sono sempre quelli prepotenti, è normale. Ma due giorni, cazzo, me, 24 ore sono un discorso diverso, perché sono 24 ore è una cosa, ma quando tu te l'avessi fatto e tu buttati lì, senza mangiare, senza bere, senza un cazzo, penso di no, avessi avuto ragione. Lì l'unica cosa è chiamare, come si chiama, è allertare tutti a un certo punto. Cosa vuoi fare? Lì a Cagliari, è che non è possibile. E cosa le hanno fatto, Antonio? Mi hanno fatto due visite e gli hanno trovato, aspetta che te lo dico immediatamente, due minuti. Ciao Luca, comunque ben sentito, saluto, aspetta un secondo che ti dico cosa mi hanno trovato. Luca, andando via stai, se ne è andato Luca. Oh, yeah. Casino, sì, sì, sì. Ma solo Antonio. Allora, in pratica gli ha provato. Aspetta. Aspetta. Due minuti, ansioso con un'attacca di panico, cadere dall'exota, frutta fumatrice, negare ferma, carenza, riferimento a avuto gastroenterite. Gastroenterite, cioè, beh, la cura non l'hanno data. Sì, sì, gastroenterite, ci fu qua due mesi fa, di aver perso peso, riferisce di aver perso peso, vorrebbe una terapia per aumentare il peso, nega alcuna sintomatologia. E poi, vabbè, tutto il resto sembra che vada bene, hai capito? Prego, se tu la vedi e ti faccio la fotografia, cosa sembra? Lo scheletro. C'è gastroenterite, vabbè, mai devo dare qualche vitamina o qualche cosa per riprendersi, cazzo, dobbiamo fargli qualche flebo, tenerla in ospedale e fargli qualche flebo per farla riprendere. Quando mai ti danno la nevrosi per le ossa, sarà anche disidratata. Allora, gli avevo dato Eurofin una bustina per 30 giorni, Nuovo Pride, 10 gocce prima dei pasti principali, poi Iovis una busta per 30 giorni, a disposizione c'è modificazione del quadro clinico. Oh, yeah. Cosa non deve né fumare, né prendere roba acida, roba tipo pomodori che contengono acido, roba del genere, perché ha dei bruciori forti allo stomaco. Allora non so cosa dirti, guarda, non so veramente cosa dirti, ma purtroppo è così. Se ti faccio la foto, guarda, te la mando, tutti spaventi, perché tu non avevi mai visto una cosa del genere. Se trovi mandato una persona così, mi avrebbe immediatamente arrestato, come se avessi messa, come ti posso dire, dentro, come ti posso dire, una camera senza mangiare per 4-5 mesi. Tu immaginati, cazzo, la questione dei tedeschi, hai capito? Uguale, lei è uguale. Allora, io dovrei chiamarti i carabinieri, perché quando una persona è così bisogna deportarla su, non è che non lasci così a casa. che fare. Quando è così magra bisogna prima di tutto idratarla, perché sicuramente c'è la l'essiccazione della carne e della pelle, bisogna idratarla e poi bisogna dargli anche del cibo terapeutico per farla ingrossare, per farla irrobustire. Con cibo terapeutico riescono a farla riprendere. Avanti. Chi è avanti? Gulliver da Lecce, operatore Antonio, avanti, mi ha fatto entrare. Ciao Antonio, ciao, l'ho sentito. Gianni Doppio Ru da questa parte in compagnia di Alessio Pomponi, avanti. Avanti Antonio. 7351, ma non ho copiato il QR Z, ha ripreso il QR per Antonio da Lecce, avanti. Cappa Antonio, dai. E la stazione Gianni Doppio Ru dalla città di Sassari, nord Sardegna, avanti. Ok, dottor Lombo, abbiamo ascoltato per la prima volta l'operatore Antonio qui nella città di Racale, provincia di Lecce, circa 10 campagne da Lomboli. Cappa. Sono in compagnia dell'amico Alessio, vediamo un po' se ti sente. Alessio, lo senti l'amico di Lecce? Dai, si deve essere assentato. Come ti arrivo di segnale in quella zona, visto che c'è propagazione? Non lo più, ma con questo bifino sette, una radio un pochino bassa rispetto al segnale, però è un segnale buono. È la radio perché stavo parlando da lontano, guarda adesso, mi hai sentito? La propagazione se ne deve essere andata. Antonio, mi ascolti? Sì, ti ascolto, mi ripeto però un po' basso di radio, ma il segnale c'è, è forte. Cappa, guarda adesso se la radio è aumentata, perché sono lontano dal microfono, capito? Guarda adesso si è aumentata la radio. È un pochino meglio là adesso, dottore, ma un pochino meglio là. Io Sassari ho avuto un grandissimo amico, un vecchio CB di Sassari, Giuseppe, il grande medico Giuseppe Santona, è un vecchio CB di circa 40 anni, 45 anni fa. Giuseppe Verà 3 per caso. Hai copiato? Chi è Giuseppe Verà 3? Antonio, mi hai sentito? No, ripeti per favore. Ho detto sei Giuseppe Verà 3. Giuseppe Santona si chiamava e purtroppo non c'è più, è stato un mio carissimo amico CB di una quarantina di anni fa. Giuseppe Santona. Boh, non lo so come si chiamava di cognome Verà 3, però di Giuseppe 40 anni fa c'è da lui, poi non mi ricordo che ce ne fossero altri. Vabbè, comunque anche io sono di vecchia data, ci sono una quarantina d'anni anch'io. Sì, sento i vecchi CB, riesco ad ascoltarli, si sente che è un veterano della CB. Io ho tantissimi amici di Sassari, adesso non ricordo, ma ne ho collegati tantissimi. Vabbè, quando c'è propagazione anche io nella zona tua ne ho collegato diversi, dai. Ma è bello, dai, quando c'è propagazione è bello perché almeno c'è con chi parlare, perché la gente è sempre poca, anche qua a Sassari, non è che siamo rimasti in tanti. Sì, è vero, purtroppo è vero, ma io ancora permesso, grazie a Dio, e con apparati datati, quelli di una volta, e non cambierò con nessun altro apparato di nuova generazione. E anche io ho Galaxy Saturn Echo, ho Royce americano da base, insomma ne ho diversi, però solitamente uso sempre il Galaxy perché è quello che mi piace di più. Adesso lo attacco, se mi dà un attimo di tempo lo attacco, dai. Io arrivo subito, sto facendo, mi hanno chiamato al telefono un attimo e devo scendere giù a Giovanna, ci sentiamo dopo, dai. C'è questa, quelli di una volta per dire, ecco. Attenzione Antonio. Sì, avanti. Adesso come mi ascolti di radio? Perfetto, come una telefonata. Questo è il famoso Galaxy Saturn Echo, non so se tu ricordi. Sì, io ce l'ho lo stesso, comprato da un amico CB di Aristano, il Saturn, ma lo uso ben poco. Comunque li ascolto bene. La radio è meglio questa? È migliore, sì. Vabbè, questo qui è un microfono MB+4 che poi ho modificato io, dai. L'ho modificato, gli ho fatto un ponticello dove c'è la resistenza per farlo uscire più forte. Buona modulazione. Sì, questo apparecchio qua è la mia chicca, mi piace troppo, ne ho diversi, ne ho anche più forti, cioè il Cobra che è un bellissimo apparecchio lo stesso, però come ricezione stereofonica, come trasmissione preferisco questo. Sì, differenza c'è tanta differenza. Ti ringrazio per aver risposto alla mia chiamata. Il segnale che sta un pochino abbassando, probabilmente la tua radione sta abbassando pure. Un caro saluto a tutti gli amici di Sassari e gli amici di Spero di un abbraccio e un saluto a te e a tutta la famiglia. Ciao Antonio, grazie per il QSO, un abbraccio anche a te e agli amici di Lecce, dai. Vi saluto tutti cordialmente, salutami tutti da parte di Nobbio Rum dalla Sardegna, dai. Ciao. Grazie, ciao, salutoni. Attenzione, cara di 10, se c'è qualcuno. Attenzione, binario 10, c'è qualcuno, cambio. Il treno sta partendo. E lui, a Torino, se trovi 5 minuti prima c'è la Lecce. Guarda che ero all'ascolto, ero all'ascolto. Ah, la Lecce di Bucuri vendi? No, sono in ascolto solo. E come mai? Non hai voglia di parlare? Voglia, sono con mezzogiorno. Secondo i vent'anni quasi è tutto, mi si è tappato tutto oggi. Ma non ti... No, non riesco ad andare più avanti. Qua che ci sono qui centri amplifono, stanno facendo le prove gratis, capito? Ti fanno tutta la prova di sordità. No, ma è stasera che mi ha pigliato pure l'altro orecchio. A volte ci sento bene, me lo tocco e ci sento bene, a volte ci sento male. Allora sarà qualche timpano che è infiammato, roba degli... Sicuramente quello di sinistra deve essere il timpano. Ma che esistono le cure, ti danno le gocce e ti passano. Sì, se mi passano la visita, sì. Quello sì. La visita è un problema a farla adesso, un casino. Stavo parlando con Antonello, guarda, gli hanno ricoverato la ragazza che è pelle e ossa, non vuole mangiare, no. E non le hanno ricoverata, ci sarà disidratata, poveraccia. Infatti, che buone poco vista mi, un altro poco di dire se n'anda. Sì, speriamo di no, ma comunque gli hanno trovato la gastroenterite, ma io dico, c'è la gastroenterite, però dagli qualche cosa per riprendersi, almeno per idratarla un po', gli dai di quei passi terapeutici per farla ingrassare un po'. E me ne sono fatte poi. Cosa? Che ha parlato? È entrato e se n'è andato. Non ho capito neanche cosa ha detto. Manco io. Se quella è così, con la gastroenterite, quello che mangia non riesce a tenerlo, anche ne rugata. Casino, perché bisogna che mangi un bel bianco, devono dare una dieta, qualche cosa, invece si dà fucile un bel... Guarda, i medici sono proprio di quella maniera, non ne vai, non ne vagini, ecco cos'è, lasciane morire, buh. Come dico, lasciane, fatti lasciare. Infatti, è cagato i mari. Ma c'è una specie di... c'è una scala, no? Io tanti anni io ho fatto servizio ambulanza e conosco questo tipo di mentalità che hanno in ospedale. Prima ci sono i bambini, poi ci sono le persone adulte, poi quelle di mezz'età e a ultimo gli anziani. Gli anziani sono considerati mondezza. E infatti, ma molti anziani se ne mandano in affanculo, se ne mandano anche se, anche se a quei dottori lì, molte volte. Io ho fatto di far quello, quando rivengo, e carraceggio in faccia e se ne mando. Io mi ricordo sempre che ho portato un uomo anziano con il figlio, perché aveva la febbre altissima, e non riusciva ad abbassarla, ce l'aveva 40 e passa. E siamo andati d'urgenza all'ospedale e praticamente questo dottore, quando noi eravamo dentro, il figlio era fuori, però deve essere stato ascoltato, ha detto: questi anziani dovrebbero fare una puntura rettale come fanno in certi paesi, così ce ne escono da mezzo, tanto cosa ci stanno a fare in questa vita, oramai ce l'hanno fatta la vita, che c'è tra due migliori, sta abitando un barugo la riga, se non si muoiono un poliziotto in mezzo guai. Mi ha fatto bene, pure ha strangolato pure io. Strangolato e poi è andato a Giotta Ribelli e è girato l'ugudo. Che adesso bisogna fare a chi sa niente, quando va a danni così. Ah, se no fa l'aereo direttamente e passerà andare in Noramara. No, il figlio gli ha detto, si ricorda una cosa, che se Dio vuole diventa vecchio anche lì. E non penso che gli piaccia che gli parlino così. Ah, io l'abbia fatto venire in mare direttamente, che l'abbia fatta a Edo e se l'abbia fatta in Oramara. Ma che tanto, gente che pensa così, non sa cosa farsene una persona. Ma infatti, ma che c'era un embriagone, era un dottore che era embriagone. Quando andavamo con l'ambulanza, gli chiamava, già a scuola, non è che mi compri una birra, no? Quando tornate poi me la dai. E magari ci usciva un altro servizio, facevamo la campagna, prendevamo la birra e la portavamo, se andava in bagno se ne beveva tutta quanta di un sorso. Pensa un poco, a travagliava che era embriaco, a quelle persone lì l'aveva licenziati e boh, perché non teneva in nuda. Ma bisognava ce lo sapevano, ma lui beveva di brutto. A volte anche due bottiglie se le faceva comprare. Andava e dice, mi aspettavi fuori, non me la dare qua. Mi diceva, non me la portare dentro, esco io. Lo chiamavamo, usciva fuori, un attimino sta arrivando subito, vado in bagno. Andava in bagno, blu, e ce la beveva. Ne c'è embriago, ne scia, vedo fatto, a caridare. Io l'avevo fatto fuori, l'avevo licenziato subito, l'avevo licenziato. Voglio vedere se mi ancora. Ma è gente furba, non si fa vedere, capito? Magari ci dà bisogno da un viaggio che va in bocca. Un viaggio da bocca di una birra, dici. E ce ne sono strani, ce ne sono. Poi, un'altra volta mi è successa una cosa, ho portato questo uomo che l'ha punto un ragno, lui è riuscito a prendere il ragno e a metterlo dentro una boccetta, una bottiglia, e l'ha portato a pronto soccorso per farglielo vedere, ma tu devi vedere questo qua, questo signore che era un contadino, stava lavorando in campagna, è entrato sotto i pantaloni questo ragno. Beh, non capiva nulla, questo che gridava, si dimenava, pari a Mandelli, si dimenava nella mano, era legato un cazzo, si dimenava tutto, fateli qualche antidolorifico, ma noi di queste punture di ragno non ne capiamo nulla, adesso bisogna andare a parlare al centro veneni, non so cosa, e il numero del centro veneni ce l'hai l'altro, ah, io non lo so, non ce l'ho, cazzo, e chi non si chi rientri, e io alla fine ho detto, ma perché non gli fate un antidolorifico? Almeno per fargli passare il dolore, non vedete che sta cazzo sudava dai dolori, sudava, gli scendevano le gocce. Pensa un poco, c'è gente esperta e no, quella è gente esperta, dottori che non ne comprende di nulla. Adesso non lo so come sia, però quando c'è lui ne ho visto di cose, lui va a caridare. Un'altra volta gli ho portato un tipo, era un trasporto, da un ospedale all'altro, e dovevamo passare prima al pronto soccorso, che ci facevano il fuglio per portarlo in reparto. Mentre lo stavamo portando, questo qui si è aggravato e il mio collega mi ha detto di mettere le sirene, che praticamente gli stava dando l'ossigeno perché non respirava più. L'abbiamo portato a pronto soccorso, abbiamo avvisato, l'abbiamo portato con la bombola dell'ossigeno attaccata, con la portatile all'interno del pronto soccorso. Una volta che siamo arrivati lì, io era leggendo il giornale e leggendo il rimasto, ho detto: dottor, guardi che sta male, un attimo sto venendo, e continuava lì. A un certo punto questo qua ha cominciato a rantolare, lui, guarda, l'ho preso a voce, dottore, l'ho detto tutti i colori, ma si vuole muovere, ci vede che sta crepando questo qui. Alla fine ha mollato il giornale e ha cominciato adrenalina, questo, quell'altro, ma tutti gli infermieri correndo da una parte all'altra, poi non so come è finita, si è grimbato o no. Ma se ne ha fatti gli anni. Ci pigliavano le denne così, ci pigliavano, dice, travaglia a nulla. Sino che non rivede che non mollano, no, non sanitano. Ecco perché sta andando male la sanità. Non ci sono solo qui, ci sono anche quelli in gamba, non è che bisogna fare la non fascio, però ci sono anche questi che se ne affuggono bene. Andiamo visto gruppi a fare degli infermieri professionali con gli OS, poi un OS si è permesso di aiutare gli infermieri professionali, che tu sei incazzato, tu non devi fare queste cose, tu sei un OS, io sono un'infermiera professionale, devo fare io le cose. La sanità Bucciamba, mandati i grandi, quelli che comandano, mandarli via e lasciare gente che sappia anche che sia capace di tutto, no? Io sa niente, manderò anche, ci vuole bene a molto di denaro. Dovrebbe essere così, bisognerebbe ripristinare un po' tutto, perché sta finendo male la sanità. Devi fare una visita per aspettare mesi, o ti mandano fuori, ti mandano a Olbia, a Cagliari, a Chivichi, a Haiti, a tutti i ribassi. Ecco una, questi giorni io sono salito su, martedì sono salito su a Via Tempio, a Cuffi, ma stavo andando ad Alghero, che ad Alghero è un piccolo ambulatorio, non ti fai di nulla a Bararecci. Allora l'ha data il 22 luglio su a Conti, me l'ha data. Andiamo già visto. Vabbè, ma tu adesso telefona, se riesci a beccarla prima telefona magari da Lottorino, da qualche parte dove fare sto convenzionarsi, se riesci a beccarlo prima magari dici quello e vai lì. Fatto, nuda da va, non ti fanno nulla, non ti fanno. Dice, devi aspettare in scena al 22. Oia, un casino, E anche io ce l'ho a fine mese, c'ho tutto, devo fare le analisi del sangue, urine, poi andare a fare la visita diabetologica e vediamo un po' come va. Al medico ce l'hai diabetologico? Sì, io ce l'ho preso. Guardate, a me ancora non me ne hanno disegnato uno. Ma tu non ce l'avevi? Sì, se ne è andato in pensione i primi di marzo. E tu non sei andato a bussare la porta a dire a me mi serve il piano terapeutico, eccetera, eccetera, cosa devo fare? Sì, me l'hanno rinnovato. Quello il piano terapeutico per le strisce me l'hanno rinnovato. Hai fatto tutto il resto, dice appena rientra un medico, lo chiamiamo direttamente. E a San Camillo non ce n'erano di pussi, perché mi hanno parlato molto bene di San Camillo, dice che sono molto bravo. Sì, ma non ve lungo, me l'hanno detto. Sono sceso, mi hanno dato il numero di telefonare il mercoledì, telefonata non ve lungo. Oh, io ce l'ho fatta così a prendermi quello di famiglia, perché non ve ne erano quasi più di lunghi, erano gli ultimi che c'erano, sono riuscito a beccare, perché se no ha dato il medico di famiglia, non c'era un casino che me. Ma che non lo gioco, c'è un casino nero, c'è. Sì, qua ne mancano, mi. Non ne manca uno, non ne mancano i zinco, di diabetologici. C'è una donna adesso, che è quella che ci ha l'attalino, e poi c'è Fresu che conosco io, poi non so gli altri chi sono. Il figlio di Pacifico se n'è andato in pensione. Pacifico se n'è andato in pensione. Poi c'è andato in pensione quello che avevo io e altri due che mi sono andati in pensione, quindi sono cinque che ne mancano. Io guarda che avevo un bravo, era Furio, peccato che ha avuto due infarti, ha dovuto volare, era magro, quindi non è a dire che era grasso, ha avuto due infarti, lui ha detto che era dallo stress che li sono giunti. Ha dovuto volare tutto il Furio, ma quello era bravo veramente. Ti dicevo, come te lo devo dire, sassarese o in italiano? Tra l'altro era anche praticamente cliente di mio padre. Conosceva bene mio padre, lo conosceva da piccolo mio padre, figura. E purtroppo la gente brava se ne è andata a Ginnetta, ragazza. Adesso non si sa quando li metteranno questi medici, se metteranno medici nuovi o giovani. A me mi aveva cavato un'iniezione, mi ha detto no, lì non deve fare l'iniezione, lì deve fare la dieta. Adesso io gli do la dieta, lei la deve seguire, se segue questa dieta lì eliminiamo anche le pastiglie. Mi ha lasciato solo la pastiglia di metformina prima del pasto. Beh, lo sai che la glicemia era sempre buona, ma chi gliel'ha data questa roba qua? Ma sono pazzi, cazzo, a dare subito l'insulina così. Vabbè, comunque cioè, continui così, invece poi non ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta perché era troppo, cazzo, troppo poca la roba da mangiare. Tu vuoi mangiare? No, io adesso sono da un po' che sono 101, 124, 112, sono sempre così sono. E cosa mangi, baci così? Ma un bel cosa mangio? Come un bel cosa? No, che ne so come niente, eppure sono sempre leggero. Sempre questo coso qua mi sto trovando. Ieri notte ce l'avevo a 124. Ieri a pranzo, dopo pranzo ce l'avevo a 101. Pensa un poco. 86, 96. Sempre così sono. Quanto insulina fai tu? Non le faccio insulina, no. Le pastiglie c'ho. Ma tu sei all'inizio ancora, vuoi? Cazzo, da 2011 sono così. Io faccio 4 iniezioni al giorno, oltre a prendere la metformina faccio 4 iniezioni. Iniezione non ne sto facendo. Ho dato questa pastiglia che mi prende... mi prende andare a pisciare ogni... Ma come bevo? Dai, 10 minuti e devo entrare in bagno. Ma è meglio perché così la butti fuori, capito? Non la tieni all'interno del ring. 10 minuti mi dico. Oh, non mi dico, abbassateva, 10 minuti e devo entrare in bagno. Figurati se mangia paura. Cazzo di bici. Ma già ti credo, Mattaro, buonasera. Come dicono le sassate, pisci e bici. Allora, così bisogna fare. Ah, va, tirata lì. Ah, la sorte, te la lezzata da voi non entra. E così sono. Ma deve essere che non ha voglia, Deve essere molto male. Molto disturbato. Caramagnelli. Di sicuro, sì. E chi c'è allora, Se ne ha risentito il 5 giorni, si dato, E che te ne pari? La sto facendo in una impresa. Ti sto dicendo, sto passando davvero in fretta ora. Però siccome le giornate sono lunghe, non ti avvisa chi per usore ancora. Fate così. La Natalina mangia una faccia un'ultra burro. Ci arriva la roba ora. Ui, aspetta come ti intendo. Commenti non intendi, così. Non si intendi, no. Ho già detto, Natalis. Non si intendi. Infatti, non ti intendo. E devi intendere il giorno, Natalis. E dare una visita alle calende greche. non male che vengo io con lo sulla lavandina. No, vengo io con la boncata idraulica. Un preso. E tu sulla lavandina, vedai, da voi intendi che guarda. Ma la pompa idraulica mi non la fa più in dreccio. Sentendo una voce, Drento, come se che fosse passa, dopo zeccheria, fa intendere. E anche se deve sentire sola, ma tutte le persone che sono sorde gridano, perché non se ne rendono conto, capito? Anche il televisore vuole la manettone. Ci sa, speriamo che a domani mi passa questa cosa. Infatti quelle gocce, quelle che si mettono dentro, poi ti vogliono un bottone di niche. Ma c'è rumore, non ne ho, mi dice, c'è rumore, non ne ho. Deve avere anche cosa infiammato, deve avere. Gianni, deve avere qualcosa infiammato lui. Ha pigliato poi Budaria sicuramente. E glielo ho detto anch'io che può venirti a fare infiammato. Però, boh. E così dico il Buga se ne era pigliato il casino. Boh, non lo so, bisogna che me lo faccia dare. La dottoressa non c'è sino a lunedì. Sì, no, mia, vai da... Anno 92, quindi due recce di buco. Tanto papà ti ascolti. Funzionava, sì. Se funzionava, già me l'avevi abbigliato, ma sicuramente non funziona. Adesso domani mattina chiedo alla farmacista a vedere se mi può dare delle gocce. Anche se come deve tenere mezzo di qua, parlo, mi sento basso dentro, però fuori già ci sento. E magari se ti pare infiammato, ti dà qualche goccia per tipo che abbiano un antibiotico, capito? Ti faccio dare delle gocce dalla farmacista direttamente domani mattina. Da pagare, vabbè. Ogni tanto viene una. Quando si è di una certa età cominciano gli acciacchi. Sì, ma acciacchi vedi giochi. Ma quando è così? Io sono andato dall'ottorino. E ho detto, non ci sento più, mi controllate per favore. Da quale ottorino però? Ma che pagamento venne? Ottorino, guarda, se cambia anche c'è l'ottorino lì. Sì, adesso guardo, lunedì mattina ci vado direttamente e lì vado. Mi porto il foglio che ho, impegnativa, e vado lì, e dico che c'ho diventato Giorgio, e non ci sento. E via. Vabbè, già passerà anche quello. Infatti, già passerà anche quello, se no divento Giorgio di Ruduccio. Per carità, non ne manca mai, no. E vabbè, ma magari con la cura già si passa, dai. Sì, ci abbiamo due gocce, sì. Quelle che mi hanno dato le gocce, mi ha dato la dottoressa, non mi ha rifatto nulla. E a me me le aveva date dove facevo la cabina infermarica. Mi hanno preso un raffreddore e mi aveva preso anche all'orecchio. Me l'aveva date l'otturino che c'era lì alla camera infermarica, mi ha dato queste gocce. E me che non si dica una settimana mi è passato tutto. A me io quando ho fatto quella da cosa, giù a Sorso, nella camera infermarica, dovevo arrivare a 14 metri, dovevo arrivare. Quando c'è che arrivi da 14 metri mi ha fatto 15 e poi piano piano ho aspettato, poi mi ha dato questi gocci da punire 30 recci. Poi mi era abbassato tutto, mi era abbassato. La camera infermarica è micidiale. Io l'ho fatta per diverse volte, ho fatto tutto una terapia con la camera infermarica. Ma gioco d'ora pa fammi la va da coso e adesso ce l'ha l'ospedale, ce l'ha. La gioco d'ora pa fammi arrivare a 15 metri. Ma fammi arrivare anche qua, fammi d'ora per sturarmi le orecchie bene. Guarda che la camera infermarica se via Venezia. Lo so di sicuro perché io ho contatti con chi guida la camera infermarica che la fa funzionare. Sì, ma ci vuole il foglio del medico, ci vuole. Ecco cos'è. Per la sinusite, io un po' mi è rimasta di sinusite. E quello a me che ti fa diventare adesso la sinusite è collegato, orecchie, naso e gola. Ah, per quello questo inverno mi è venuto a me il raffreddore, ma il raffreddore voti. E mi ha preso all'orecchio, mi ha preso anche. Ecco, l'orecchio sinistro. E non è visto che... Oh, il raffreddore avevamo, è passato, però la recce è sempre la matessa. E ti ha lasciato l'infiammazione, sicuramente quello lì è. Infatti mi ha preso l'infiammazione, la dottoressa mi ha dato dei gocci e non mi hanno fatto nulla. Ma lo sai tu, cambio di discorso, rimani, hanno controllato a Taiso i denti, perché ogni tanto lo controllo e cose. E non c'aveva un po' la sacca in mezzo ai denti, ma Capannino cosa gli ho fatto? Con una pinzetta dovevi sterilizzarla la pinzetta e togliere con la pinzetta e appena la giocavate così io con lo stuzzicadenti se non tolto, però lui già ci fa fare tutto, però lo stuzzicadenti invece gli dava fastidio e si rimenava un po', non voleva. E una volta mi ha anche stretto la mano, ho detto, oh, ti vedi, che ti sto curando io. Perché se se ne ingoiano quello, guai. È un guaio sì, no, invece l'avevo lo stesso, mezzo ai denti. Poi io gli ho tolto, piano piano gli ho tolto con la pinzetta, gliel'ho tolto. E chi non si fa di far nulla a me, guai. Una volta ce l'aveva due volte dentro il naso. Ho portato io da su dall'alcosio, veterinario, due volte 50 euro mi ha pigliato. C'era due, ma mi ha pigliato 80 euro a cavallino da lunario, perché l'ha dovuto fare anestesia. A me mi ha pigliato 50 euro, due volte 50 euro. E stava tipo sanlutello sempre, come lui faceva il mio, sanlutiva. Ma cosa c'è? Il raffreddore ci ha preso, e lì se non ci ho pensato, poi l'ho controllato e gli stiamo scendendo anche sangue, ho detto no, e non mi veda che cosa che non hanno, l'ho fatto a veterinario, sì c'è un po' la sacca, l'ha guardato con la fila, ci ha fatto l'anestesia, gliel'ha tolto ed era anche male. Quando è l'anno scorso? Sì, pensavo che ci avesse il forasacco in naso. Mi ha controllato questa qua. Mi ha controllato e diciamo non c'è nulla dentro. A lui che sta notiva. Ma lo fanno ripetutamente. Quando c'è il forasacco lo fanno di continuo, fanno ci, sempre così sale. Sembra un cavo di quelli con la pompa dell'aria rotta. Infatti adesso con di me che vedo state sempre buone in giro un naso, 30, mi seguite. Io non voglio appunire un seguire, è tutto pieno di forasacchi lì. Certo. Tanto di buoni un seguire 30. E anche lui fa così, si sprega, si curica e si sprega di là. Poi. Però io lo sto portando adesso in un posto dove è preparato e così almeno non si... c'è il marciapiede, poi c'è questo giardino dove ha arato un terreno e lì fa la pipì, fa la pompone, quello che deve fare. Non lo so più portato dove ci sono i colassacchi, perché ne ho trovato anche una mezza ditta. No, l'altro che ci avevo, io chissà che ci avevo, mi era entrato in mezzo alle dita. E gliel'aveva tolto, gli aveva preso infezione, mi ha dato questa cosa qua da mettere il piede a bagno. E poi do un bel po' si è cristallizzato tutto qua. Deve essere che ce l'ha variata un po', se ne abbia infezione così. Una settimana per via dentro, a ultimo l'ho portato al veterinario e gliel'ha tolto, piano piano gliel'ha tolto, mi ha fatto mettere con questa soluzione qua, il piede a bagno e poi l'ho portato da lui. Come ho finito di fare questa cosa l'ho portato da lui e gliel'ha tolto, e si è aperta la ferita, si è aperta. E tu a tunnel non ce la facevi? Oh, io voglio andare, io voglio parrocchiale 31, fa entrare, lui c'aveva la pinzetta con il LED. Con il LED è uscito fuori. Ah, era un bel tratto, era. No, quello di taglio era, diciamo, sì, infilato, ma all'inizio. Allora dal naso è che veniva male a togliere. Sì, si è entrato con la pinzetta, si è entrato in fondo. C'aveva la telecamera attaccata, la pinzetta, e là come l'ha visto l'ha tirato. E io ho visto tutto come l'ha fatto. E anche io l'ho visto. E beh, quelli lì camminano, e se vanno in organi vitali ci rimangono. Perché loro sai cosa fanno? Odorano. E odorando aspirano, no? Se lo fanno entrare dentro loro. Allora, poi io sono giocatore di meno, vedevo che ecco dove vado a ripetere proprio per fatti dire un seguito, non colpendolo, ma no, ma che mi vede se si allontana? Tante volte non ce lo faccio andare lì io, no, niente, rubiamo del lacere. E allora si tira, non lo so se è così, anche lui. Oggi a casa vai un fratto, ma non tagliato l'erba, la lasciano lì, capito? Una volta che la tagliano, i fuorassacchi entrano ancora di più perché sono staccati. Infatti, no, da me ancora non l'hanno tagliata lì nel giardino. Vado, si bassa in mezzo, si bassa. Entra nel rubiaco, è tutto pieno di fuorassacchi lì, di quelli verdi proprio. No, qua vicino a casa hanno tagliato l'erba, no, però la lasciano come... per fare da concime la lasciano, non la raccolgono, prima la raccoglievano, facevano i sacchi e la raccoglievano, adesso la raccolgono più. E perché la fanno diventare concime, la fanno diventare. Ah va, se tagliano in chiave, già come ti si attaccano i burassacchi. Io che hanno tagliato tutti, la mattina ha preso, oh, se ci vado male. Dopo l'erba stanno tagliando, mamma mia, una foresta, me. Hanno aspettato a tagliarla, ui, è che ha fatto acqua e ha fatto crescere un bell'erba, ma c'erano certe bietole, se non fosse anche andare di gare, non va via né un buco, ma queste foglie enormi, belle, grandi, senza un buco. Tu che vi passano i gani e ti rabbisciano. No, nel coso anche qua ce n'era, ma qua se non passano a tagliare l'erba diventa un casino, diventa. Ah, ma vedo pure i zecchi che era stato buraghissimo. Io infatti sto aspettando una mattina, mi sento domani mattina, secondo come devo fare il bagno giù, gli devo fare sotto al portico, io non devo fare e mettergli il collare laggiù, due in laggiù mi hanno mandato due collari, mi hanno mandato e quella da 8 mesi se resto hanno imbagliato, ma deve darci due al prezzo di uno e già va bene, dai, così lo uso il prossimo anno, No, io non ne metto di quelli, io metto le gocce quelle di marca, le metto quelle, solitamente le metto quelle gocce lì, no, quelle celeste non le metto perché un amico mio le aveva messo, le ha fatto bene, le ha darbattite quello lì, le ha fatto perdere tutti i peli, le ha fatto tutta la pelle rossa. Oh, questo già le pedine da zero, vero? Ma già non è bello, in ogni casa ogni giorno faccio l'aspira a polvere un chilo di vero l'accoglio. Ma pelo lungo è? No, pelo corto è, pesante e corto, ma già non tutti ne da sentirla. Adesso è il periodo, però io il mio lo spazzolo ogni mattina, capito? Lo spazzolo quando ritorno da portarlo giù. Li lavo giù, io pulisco tutto, lo spazzolo, li lavo, li pulisco le zampe. E però sì, ne prende, ma appena, non è proprio, è appena corto il mio, quindi non è per le uova. Ma sai, giù io lo pettino giù, lo pettino, lo faccio con la spatola, ma già che non tu ne riesci. Un coso, un parecchio ne esce, è più quello che perde in casa. Quella marruca. tu rubano le rugane, devi fare un coso, un materasso. Fatti un parrucchino, amore. Prima si usava con le piume di gallina. Mio padre le faceva con le piume di gallina. Prima. Ma vesci Natali, non vesci un marrucchino con un bello di ungare. Arricchi, è un meglio arricchi. Hai sentito Natalino, già? Che se viene un meglio esci. In effetti così. Guarda il collaro di muove la gola sopra nei rugabo. Non mi attacchi. Si rubano dei organi adesso sta maglietto randessi e così di camuffi no? Quando vedi il pizzo pure la mediale ma sei scendato e ti vai a tenere pure così è e a chi sa che si occupa per tenere è una decisita ma è dormito si è dormito d'ora non so che fosse ma mia mamma è mandrone russa pure c'è da molto in russa ogni tanto ne molla uno ma un fiago magari dai dell'amme cata no apri un luce e ti abbaglia e invece quando li posso se li bruci vedaci che sei più fiaggoso dentro che li bruci come tende un zocco puff se ne scappa perché lui viene sul divano no io mi corico e lui viene pieno e mi vuole sempre sedere in faccia praticamente verso la mia faccia quando molla quella grima di miglia la gola che la canta è fuori niente no ma già l'altro lontano da me ma il mio mi vede come se fosse la mamma capito mi sta appresso anche quando vado in bagno sempre da lì tu viaggio e poi andiamo no così non va bene io faccio di quella maniera quando lo vedo se si trommino dietro rimane lontano da me è così e dipende sempre come li amplificare il mio senza di me non sa stare perché se non ho col più ce lo porta nessuno quindi anche se nel camagnero non lo di nessuno quindi è normale che mi vede come la mamma e mi sta sempre appresso io ormai un padrone sono diventato io sono appresso a me sono appresso la tua figlia non se l'ha preso più c'erano 8 mesi poi mi ha fatto il biglietto a salire su a Genova sono salito da mio zio e me li ha portati lì da lì mi ha giubilato l'ave c'è avuto un radaino a lui te l'ha regato c'aveva a lui e la lupa c'avevamo ci aveva portato tutte e due poi l'ha tenuti per 8 mesi poi lì invece non gli facevano più tenere dove era l'hai denunciata Buru e allora l'ha fatto ma ti faccio il biglietto sali su a Genova domani mattina e te li porto a Genova e sono salito da mio zio ho aspettato lì e mi ha rigato i chivici mi ha rigato e dopo ci si ha rigato di tu vabbè e il lupo sempre a quello che l'ha regalato ce l'ha a quello di Alghero l'ho dato a questo ragazzo di Alghero e ce l'ha lui ce l'ha è femmina Rugani però è molto molto brava lo segue lui lei va avanti vado a Daredo in bicicletta i pastori tedeschi sono intelligenti cos'è la pastore tedesco? No, lupa c'è cosa bassa. Ah. È brava, è molto brava. È meglio detto, Buru. Perché non te l'hai tenuto anche quello? Era proprio obbediente, ti obbediva a tutto. Ha tagliato due cavi di l'antenna, ma ha tagliato. Ah, ma chi ce l'hai dato? Ah, l'ho dato perché non riuscivo più a tenere due qua. Come ti fai? Ciao! posso fare male uno, pensa un po' a Cudui. E dopo vogliono curarti, fatti i vaccini, se stanno male vogliono farti al veterinario, sono anche spese, non è... Io ho un'amica che ne ha 20. Ah, così no, sono troppo di navi voli. Ma lei è una volontaria, quelli che trovano in strada li prende e se li porta a casa, c'ha lo spazio e tutto quanto, e hanno anche i soldi, perché sennò 20 cari voli di nudi, poi li obbedi carri, va apposta a comprare i sacchi di carne, compra in macelleria, vado alla macelleria tipo centro carne, così, ti preparano il macinato, il telefono, ma se non ricina, si fa i rubic per andare a prenderla, perché lei abita in montagna, e si fa i rubic per andare a prendere la carne ogni volta. Ma cazzo, mangiare un bel... Ma ponili sempre in carri, fai prima, no, non fai prima a ordinarti un coso di crocchelle, e fai prima. No, lei è contraria. Ha detto che le crocchette sono merda, che non... lì praticamente ha tutti gli attestati di allevatrice, istruttrice, eccetera, eccetera. Ha detto che le crocchette non lo dirà mai nessuno, ma ci mettono merda nelle crocchette, ti fanno male. Dice, nelle crocchette c'è calcolata la vita del cane. Ma io le ho viste come le fanno... del carne seccata, ecco cos'è, tutta la cosa viene seccata. Avanzi, mi mettono avanzi, ossa, tutta roba così, carne guata, che le tirano dalle macellerie. E che veniva uno da noi, si ritirava il camion di carne, c'aveva una specie di, come si chiama, la tramoggia. Via, si rampava dentro, i sacchi li svuotava un fiato, non si buttava, il movintevole lo vuole. Ah, io ti devo lasciare, ma ne telefono andando a pigliare la signora. Ci risentiamo alle prossime. Ok, grazie della chiacchierata. Ci risentiamo alle prossime. Ciao Natalia, se bisogna ancora. Ciao dottore, già sono in ascolto. È che ho questi dolori e non ne ho tanta voglia di parlare. Buon proseguo dottore, alle prossime. Ciao Natalia, ho detto che non è che mi posso cercare di da... Ciao, ci sentiamo anche a tutti gli ascoltoni. Buona serata. Ciao già, buona passeggiata, alle prossime.